Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Nel suo libro Physics for Future Presidents, Richard Mueller ricorda come un metodo semplice ed economico per combattere il surriscaldamento estivo delle abitazioni e l'effetto isola di calore che rende talvolta insopportabili le nostre città, basterebbe verniciare di bianco i tetti, le pareti degli edifici e magari pure le strade, più o meno come si fa in alcuni paesini del sud Italia. In questo modo gran parte della luce verrebbe riflessa e non si trasformerebbe in calore. In gergo si parla di aumentare l'albedo delle città. Un'idea semplice ed efficace che incontrerebbe il solo limite di produrre un ambiente abbacinante, insomma per nulla confortevole per la vista. Quindi lo avrete intuito a questo punto, con una mano della vernice giusta si può fare molto, soprattutto se la vernice è specializzata nel riflettere la radiazione infrarossa, quella quota invisibile della luce solare che però costituisce circa la metà di quella totale proveniente dal sole, quindi un buon 50% del problema. Ne parliamo con Alberto Muscio, ricercatore di ECIT, il Centro di Innovazione Tecnologica per l'Efficienza Energetica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove a proposito di vernici ne combinano letteralmente di tutti i colori. Buonasera Muscio. Buonasera. Dunque, voi state sperimentando queste vernici soprattutto per realizzare i cosiddetti tetti freddi. Ci spiega cosa sono e come funzionano? Molto semplicemente sono dei tetti che riflettono sia la componente visibile che la componente non visibile infrarossa della radiazione solare. Non solo, siccome non possono riflettere tutto fisicamente, quella piccola parte che assorbono la riemettono in virtù di un'altra proprietà che è l'emissività termica. Sono in pratica eccellenti emettitori di radiazione infrarossa. Quindi queste due proprietà combinate danno il carattere di cool roof. Cool roof, quindi tetto freddo, smaltisce molto bene il calore che riceve. Sì, sia per riflessione che per riemissione. Quindi, cioè, se si scalda il sottotetto, per intendersi, questi riescono a disperdere bene l'energia che si trova al di sotto. Esattamente. Ecco, questo però non crea problemi d'inverno, cioè d'estate capisco che ci sia un vantaggio, però anche d'inverno si raffredderanno più velocemente questi tetti. L'intensità della radiazione solare d'inverno è meno di un quinto di quella dell'estate, per cui a noi abbiamo un vantaggio notevole d'estate, circa il 30% possiamo quantificare di minore energia per condizionamento, e d'inverno in riscaldamento, siccome il sole apporta molto meno, perdiamo meno del 5%, addirittura ancora meno se abbiamo un edificio moderno ben isolato. D'accordo. Ecco, come si applica questa vernice, abbiamo detto? Questa vernice si può applicare a spruzzo oppure si possono applicare anche delle guaine. L'applicazione è molto semplice, la può porre in opera qualunque lattoniere. In quali situazioni è più utile? Sicuramente negli edifici molto estesi in pianta e con altezza ridotta, quindi che hanno molta superficie esposta al sole. Esposta al sole. Poi edifici che hanno dei grossi problemi di condizionamento estivo, cioè che si surriscaldano notevolmente durante l'estate. Penso ai centri commerciali e alla zona del freddo dei surgelati, quella è una zona che d'estate deve essere mantenuta a temperatura comunque molto bassa e una soluzione del genere sarebbe sicuramente vantaggiosa. Ci sono dei materiali su cui si riescono ad applicare, dei materiali su cui invece non si riescono ad applicare? Dato il tipo di superficie, purché sia orizzontale, c'è sempre uno o più materiali adatti. Coppie tegole no? Coppie tegole no, perché materiali attualmente commerciali hanno una colorazione bianca e sul classico tetto in coppie tegole italiano questo non è ammissibile per ragioni anche di impatto visivo. Certo. Tuttavia sono allo studio dei materiali cosiddetti cool colors, che stiamo anche sviluppando pesantemente qui a Modena, che sfruttano prevalentemente la riflessione dell'infrarosso e quindi non nel visibile dove si ha l'effetto colore, certo, per ottenere elevate prestazioni di raffreddamento estivo. Quindi insomma, se qualcuno è interessato a queste tecnologie per farci delle tegole fredde, chiamiamole così, per esempio potrebbe rivolgersi a voi. Certamente. Togliamoci il dubbio, la cosa che si domandano tutti, quanto costa e quanto dura un trattamento del genere? Costa, può costare intorno ai 20 euro per metro quadrato di superficie, ma quando dobbiamo già comunque rimettere mano al tetto, il sovraccosto può essere limitato veramente a pochi euro per metro quadro. Questa vernice va data dopo quanto tempo, una volta che si è data la prima volta? Ma dipende dalla particolare soluzione utilizzata, alcune hanno una vita dichiarata di 10 o 20 anni senza bisogno di nessuna manutenzione se non il lavaggio, altre richiedono applicazioni di un ricoprimento superficiale ogni qualche anno. Bene, per oggi Mr. Kilowatt si chiude qui, domani parliamo di sufficienza energetica, cosa sarà mai? Vi dico solo che il concetto di efficienza energetica in alcuni casi nasconde delle trappole, vedremo quali.